giorno che ci batti, ecco. Giorno che ci batti, manco qua, cazzo. Il giorno che ci batti, il mondo va allo sfacelo. Piovono rane dal cielo, scordiamo fiabe, portiamo piaghe. Merda che sta nel Vangelo. Io per scappare dal cielo ho già girato per troppi rifugi. Un cuore infranto che non mi rifugi, ma è nato ora quando mi tocchi ti fuggi. Fra non fossi stato c'è impara un dog. Sarei ubriaco alla sala slot. Se non riempiamo sopra la spot, finiamo a vivere a Praga e Swat. Non mi parlare di quello che faccio, vengo dal disagio, ora ne sono la mascotta. Chi scava il fondo, chi scala il top, chiama la squadra SWAT. Sono il rap punk di LeBron, uno slam dunk di LeBron. Una stecca, sì però muovendo l'infetta. Viverò metà triste e metà comico. Chi mi odia mi sa che è cattolico. Sono mezzo rap alcolico. Tu mi sembri un nerd alcolico. C'ho più caldo del Cairo, Milo. Lascio colpi nel nylon. Il flow se sta colpi nel cranio. Perché pensa ad ogni dettaglio. Traccio un arsenale vario. Stacco le casse dal telaio. La mia raffica a ventaglio. Ti fa una plastica al metallo. Il giorno che ci batti, arrivano le cavallette. Ti facciamo fuori manualmente. Sono dead al 7, data 1 a 7 in ogni sala bette. Gioca. Chi parla male dopo questo ci dico la smette. È un doppio con Moya e con Federer, senza racchette. Rap, avanguardia, un flow grosso, fa la guardia. Ad ogni barra cambia, come fa la pelle di una salamandra. I tuoi pezzi sembrano gli stacchetti di Sarabanda. Rappi, ma se manco, c'hai la barba, ti guardano male come chi spara un panda. Tiro in alto il versillo, Blackstar Cowboy, frate me dillo. Ci vediamo due minuti per dirlo, e vinciamo i Golden Globe, servillo. Il piatto principale è nostro, se vuoi tu puoi, servito. Siamo con i John, The Smith, Michele Rolls Royce, Nellito. E questi baitano, rap guerriero, Ivano, cammino sulle acque, Dynamo. In fuga dalle forze dell'ordine, come da un bailo, nei film tipo per il cattivo. Ad ogni giustizia siamo attivo.